casa da parecchio. Dove in casa? Ecco qua. Hola. 15 con picchi a 20 quasi. Qui 7 con picchi quasi a 9. Cos'è un Aniton 555? Cos'è quell'apparecchio? Eia. Aniton 5 AT 55-55. Quello mi sembra vada dai 25 fino ai 30. Eia. Bene, una bella bestia. Già va bene come apparecchio. Ehi, avanti Roberto. Comunque il segnale sei 9,60, prima eri più di 9,60, sei a 9,60 Antonè, solo 15 ne danno, in barriera che cos'è in più? Ho detto 15 con picchi a 20, è che non ho toccato dentro, se lo apro dentro me darà più, sono sicuro che me darà più di 30. Quando ti arriva a te Antonello Franco? Il segnale di 7, con picchi quasi a 9 di modulazione, dai. Scusate, Claudio, Eia, guardami qua nel suo segnale un attimino. No, che prova che mi ha messo gli occhiali, prova. Prova a vedere se ci ha cambiato qualche cosa, credo in un altro canale, lo stavo cercando di riscaldare. 9,25 senti, sempre la stessa, stesso segnale, dai. No, vabbè, 9,25 sta andando, dai. La radio ha cambiato? No. Vai, te l'ho detto, vai, 9.10 e 9.25. Bella cosa, bella. Già vanno bene questi aiutini che ci abbiamo, non è un problema. Avanti, io roba, riprenditi, vai. Tutti pompando state, cacchio, piccolino sono io, come al solito. Ok, vediamo che è rimasto qualcuno qua su 10, facciamo un attimino di bianco se vuole entrare qualcuno, avanti. Cazzo, vabbè, sono l'altra volta che ti dico, se c'è qualcuno che vuole entrare, entra lo stesso, basta breccare e entra, non è che devi dare bianco turno. Ma molte volte c'hanno i segnalini in maxi e qualcuno non li ascolta, è capitato anche l'altra volta, c'era Mirko, non lo sentiva nessuno, infatti quando ci vuoi avete segnali oltre, tu sei quasi 9.30, 9.25, quei picchi quasi arrivi a 9.30, l'altro è 9.25, l'altro è 9.60, l'altro è 9.40, se non facciamo i passaggi troppo lunghi magari qualcuno riesce anche a entrare in quelli più lontani. Bravo Roberto. Bravo, fa una cosa giusta adesso, se la c'è un po' di bianco tra un passaggio e l'altro. Comunque Gianfranco, mi hai sentito? Sì, ho finito la cena e quindi sono rientrato, anche se faccio solo una mezz'oretta, un'oretta, vediamo un po'. Ti tocca, avanti Franco. Dai, visto che è stato Gianfranco io gli do il cambio, vado a mangiare io. E vi saluto, dai, ciao Alessio, Claudio, Carlo già chiuso, Roberto, Pino e saluto anche Gianfranco. Avanti Gianfranco, buonasera. Sì, ciao Franco, buonasera, buona cena, alle prossime, riprendi Roberto. Sì, ciao Franco, io tra poco vado a mangiarmi qualcosa che sta ribollendo lo stomaco. Ben sentito Franco e ti auguro una buona cena e buon tutto. Ciao, alle prossime, vai Tino. Ciao Franco, ciao anche a te Franco, buona carica, tante cose belle, dai, ci si ascolta magari più avanti o più tardi, ce ne voglia. Claudio. Io ne approfitto lo stesso e vado a vedere qualcosa di pronto. Ci sentiamo, ciao Roberto, Tino, Gianfranco, ben entrato, a Franco, Antonello e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buon fine serata a tutti, a domani, ciao. Ciao a te Claudio, buon tutto e buona mangiatoia, dai, vai Gianfranco. Sì, ciao anche a te Claudio, buona serata e buona cena, ci sentiamo. Ciao, chi è andato via? Oh, non me lo ricordo più, ero distratto. La vecchiaia Caronia, riprendi, chi c'era? Dimmi tu Roberto. C'era Franco che è andato via, Claudio è andato via e poi c'è Tino e Antonello. Ah, allora avanti Tino. Eia, Gianfranco, vabbè. Buona carica anche a te Claudio. Lo so Robè che sei un po', come si dice, primoroso con le coppe degli altri o fastidini, già la gente entra lo stesso, poi noi siamo quattro gatti, non è che glielo lasciamo lo stesso bianco. Gianfra, invece tu lo so che non vuoi usare gli amplificatori. Io ogni tanto lo uso e non è che a me piace utilizzare la cosa che ho. Non so se sia partita questa modulazione. Avanti Gianfra. No, io non, l'importante è che senta bene, poi a me non mi dà fastidio, no, ognuno fa quello che pare, no, non ho mai avuto niente in contrario, ognuno c'è libero di fare quello che vuole. Io esco sempre basso perché, come ho sempre detto, ho tante antenne e tante radio accese, quindi non voglio che, siccome sono molto sensibili, non voglio che ci siano dei rientri che poi desensibilizzano il ricevitore, capito? Quindi, anche perché basta, c'ho sta salita avanti, quindi non ho necessità di amplificare in maniera esagerata il segnale. Tutto lì. Chi era poi? C'era Antonello, che auguri per il nuovo apparecchio. Vediamo un po'. Ciao Gianfra, ben sentito. Comunque saluto quelli che hanno fatto tutti i corretti da parte mia a domani. Beh Gianfra, com'è la radio? Buona, ti piace? Tranquilla, non so. Sì, perlomeno come voce mi pare che vada bene, ecco. Sento un rumore, ma presumo che sia vicino a qualche ventola, come sempre. Però diciamo è molto meglio delle tue precedenti che usavi di norma, ecco. Ah, è meglio, che sono contento. Già va bene, a voglia. Antonio, sta modulando in un'officina di carpenteria metallica, la voce va bene, ma tutto il rumore che ti porti appresso, se no c'hai molette, troncatrici, non hai poco di rumori, Antonio. Aspetta, metto il microfono su originale normale. Dai, 2 minuti. C'è anche un turno adesso che ho sentito. Sì, sicuro. C'è anche un compressore. Sì, Antonio, è buono, le patate. A me fa ridere Antonello, 2500 radio, 2500 modulati, quando dico Antonio hai trovato la perfezione, e domani ne metto un altro. Sì, se la cambia, no, è più forte di lui. Vabbè signori, dai, rimanga quel rischio, che faccio una cosa di cibo, poi al limite riprendo, eh. Avanti Roberto. E anche io tra poco vado a pappare, ok, grazie della questione, anche se non lunghissimo, breve, comunque è sempre piacevole. Di nuovo a te Gianfranco, per i saluti a Tino. Sì, ciao Tino, buona cena e buona serata. Riprendi Antonio. Ehi, ciao Tino, buona cena, buona serata. Adesso con il microfono sul originale, normale. Adesso è stato il compressore, la lavatrice, il gruppo elettrogeno va molto meglio. Addirittura aumentata, potenza di voce. E nessun rumore, perlomeno anche sul passaggio. Sul passaggio era breve. Avanti Roberto. E forse un pezzettino ti ho parlato sopra, no, gli ho detto che adesso non si sente né lavatrice né turno, né troppo una colonna né moletta, fa molto meglio. Ah, va bene, ok, adesso lascio questo, poi domani già mi senti senza quei frusci del coso della lavatrice. Quello grande. Si è bruciato in pratica i ponti diodi e mi ha bruciato un fusibile e l'altro che c'è, siccome è una alfa elettronica, è uno di quelli modello vecchio e quindi devo controllarlo bene e non attaccarlo, cioè che mi rimangono i condensatori in mano come alimentatore, quindi lo sto facendo con calma. Adesso mi vedo di cambiare i fusibili, di vedere il sistema di ponti diodi come si deve, vediamo se lui accende, è perfetto l'alimentatore. Utilizzo l'altro, così almeno non senti più questo siete al limite solamente per il VHF e basta. Tu già fai, già mangiato? Sì, io sì. E adesso vado a fare una pausa, magari se c'è qualcuno dopo ci sentiamo più tardi, non è detto perché sono un po' stanco, dai. Ok, se no tutti salutati e ci sentiamo domani eventualmente. Ciao ciao a tutti e due e anche eventuali amici qua sul canale 10. Ciao ciao. Sì, no, più tardi neanche io perché ero tutta la sera facendo ascolto e anche ieri notte sono rimasto fino a mezzanotte quasi. Quindi oggi pausa, ci guardiamo un po' di TV e poi nanna. Riprendi Antone. Ok, ciao, va bene, allora ci sentiamo. Adesso vado anch'io a prepararmi la cena, perché Simone ha già mangiato un tramezzino, ho avuto quello. sei qui da adesso, mi tocca farmi la cena per me, adesso vediamo un po' cosa mangia. Si è fatto il sugo, non ho girato di farmi la pasta a quest'ora. Domani ci sono le sardine, mangio sardine al sugo, in padella, ragazzi. Va, vediamo. O mi faccio un tramezzino, anzi no, panino mi faccio, un panino caldo, con prosciutto, e almeno sto meglio, è più leggero. Infatti, così almeno dormi bene. Io notte mi sono coricato, che erano le 10, cioè, me lo mangiavo freddo ieri sera, mica. Mi sono dovuto coricare, vabbè, di solito mi guardo la televisione qui in cameretta, io, hai capito? Perché Simona si guarda la televisione in camera sua, poi visto che 10:30 la giornata mezzata sono entrato, mi sono trovato fino a letto fino alle 10:30 del mattino stamattina, quindi figurati tu. Avevo sonno, vado io, arretrato, anche perché tra tosse e cose del genere, 3-4 giorni non riuscivo a dormire, di tutto ho preso, di tutto e di più. E poi man mano che si sale d'età, bisogna sempre starci più attenti a queste cose, non eravamo come prima che ci mangiavamo anche un bue e non ne risentivamo. No, è rimasto qualcuno su 10, vediamo un po'. A proposito, stasera il PMR su canale 7 ho sentito i cacciatori, qui abbiamo compagnia adesso sul PMR, se vogliamo sapere dove vanno a caccia con i cani, lo sappiamo subito, la sua versusilo. Allora regala un po' di PMR anche ai volatili, ai cinghiali eccetera, così vi dico, i miei stanno arrivando e quelli si spostano, sono frequenze libere come queste, quindi chiunque può entrare e fare quello che deve fare. Oggi li ho sentiti, evidentemente si erano comprati l'altro giorno, due cacciatori, in pratica si sono persi i cani, cioè i cani di uno sono andati dall'altro, il cane dell'altro è andato a quell'altro ancora, e si stavano chiamando, gli ho detto cazzo con l'acqua che c'è, vado a cercare il cinghiale, ma questi non sono sani di cervello, gli ho detto tra me. E cerca di entrare, ma che cazzo vai a cercare maiali e cosa, vai direttamente come si faceva una volta che alla moglie raccontavi, amore mi sono andata a pescare le notte mi. E quello è pescato e sardine, bastava andare alle 6 di mattina dove c'erano i pescherici, portavi le sardine a casa della moglie, magari lui andava dall'amante la notte. Anche quello capita, d'altronde gli umani sono così. Sì, ma dalle carte con questa pioggia a caccia non ha giù compreso, per me sono esauriti, a parte che meno male non si sono impallinati uno con l'altro, cioè uno ha perso i cani dell'altro, figurati tu se ti puoi finire ad andare a caccia con quelli. Sì, ma anche bravi cani, che si scambiano i padroni, quindi erano molto addestrati. Sì, senz'altro, capito. Vado qua su verso la salita di Uri, cioè andando verso Usi, dove c'è come si chiama? Dove buttare la mondetta, ce l'hai presente, lì ci sono quei costoni che scendono in quei valloni, capito? E vanno a cacciare, lì li vanno a cacciare. Me lo ricordo perché ci andava Mario Manca su, quello da Brighiero, andava lì a cacciare, capito? Cinghiali e cose del genere, ci sono quei valloni, ci sono, vicino alla discarica che c'è, come si chiama, adesso non mi ricordo il cognome, sendo una sala nuova di Usino. Cos'era, Calancoi? No, Calancoi, Calancoi non ci possono andare, ma stai scherzando, era la parte opposta, la sala nuova, dove c'è l'altra cosa della mondezza, di un privato, che non mi viene in mente il suo cognome, la verità, lì ci sono tutte... sono quei palloni, capito? Vanno lì a cacciare, va. Evidentemente si trova ancora qualcosa, ma non è che, a meno che non vadano a cacciare cornacchie, che di quelle già ce ne sono tante, o di altri volatili, stanno andando diminuendo anche loro. Sì, ci sono i cinghiali sempre questo di notte, ma se andavamo da fuori, con Covid, vedrai come entrano in città, ma stanno entrando in Italia, per cui uno o due, o se fanno come ha fatto Guido, ha avuto un incidente, passa quello dietro, ha posto il soccorso a lui, si è affidato il cinghiale e se n'è andato, ha detto, mi dia una mano, sto male, ci arrangi, l'ha detto, si chiami l'ambulanza 118, io me ne sono andato, si è affidato il cinghiale e se n'è andato, capito? Me l'ha fermato la forestale. Quello è passibile di denuncia anche, perché è omissione di soccorso, per quello poi moriva, erano cavoli amari. Sì, ma già è successo però, è successo veramente. Ha preso quello, ha avuto un incidente, ha preso il cinghiale in pieno, cosa ha fatto quello là? Si è fermato, pensava che non fosse soccorrendo, si è preso il cinghiale, se l'ha caricato nel cofano, ha piato il mese ed è andato. Si vede che è rimasto mette un macco. Certo che di gente fuori di testa ne siamo pieni. Beh, vabbè, non ci vuoi fare. Purtroppo è così, oramai capita, non ti rimane a figliare più di niente. Beh certo, se dovessi avere il mio cinghiale e scende qui via Carlo Felice, dico ascolta, va direttamente in garage che è meglio, poi già chiamo qualcuno, hai capito, lo faccio ammazzare e poi ce lo rivediamo nel condominio. Vabbè, ma non credere che il cinghiale sia così ambito, molta gente non ne mangia, non le piace, perché se non è fatto proprio bene bene dagli esperti, è popposo, quindi non... vuole saputo fare, e poi quando mi sta dicendo che è un cacciatore, che è una cosa micidiale, perché adesso deve portare a controllare che non ci abbia la cosa lì, che non sia infettato, che qua, che là, insomma, praticamente è meglio lasciarlo dove. Abbiamo dovuto essere natalizzato, quello poveraccio ci ha fatto della macchina facciata avanti, quindi figurati, a un certo punto cosa dice la circolazione, no? Ho preso un cinghiale e io dovevo vedere il cinghiale dove sarà caricato un signore, a un certo punto si viene un mammacco, dice. No, se le prende il numero di targa, allora c'è, a Farese ha portato via il cinghiale, quindi è un elemento di prova per l'assicurazione, e poi è anche omissione soccorso, quindi ce n'è, la gente fa le cose con leggerezza e poi non sa neanche quale potrebbe essere le conseguenze. E' gente ignorante, evidentemente, di chi si... come si dice questa sera, tra l'allera, e poi si trova i carabinieri in casa. Sì, se è stato salvo, ha venduto qualche circolo, mi... fatta, come si chiama, l'ha venduto qualche circolo. Quindi, è salvato di là, l'ha fatto lì, un poveraccio, è rimasto lì come un imbecille. Uiaia. Vabbè, dai, che va la famiglia a cena, Gianfranco, ci sentiamo, ci sei dopo, se no domani, dai, ok? Sì, Antonio, vai pure, tanto anche io stasera non sto a riposo perché oggi ho lavorato troppo, quindi poi ieri ho fatto anche tanto ascolto e adesso me ne sto al calduccio, ecco. A domani, Antonè, buona serata. Sì, altrettanto. A domani, ciao, stammi bene, saluto a tutti quelli che sono all'ascolto. Ok, ciao.